Salva Danaio di Deborah Rosciani. Tutti da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Oggi ritorniamo su uno dei vostri temi preferiti, la casa e il mattone. Perché? Perché oggi debutta con il Sole 24 Ore Casa 24, il nuovo settimanale dedicato alla casa. Il real estate si guadagna dunque ulteriori approfondimenti sulle pagine del Sole 24 Ore. D'altronde il mattone continua ad essere l'investimento di gran lunga preferito dalle famiglie italiane, nonostante il momento di mercato continui ad essere ancora poco favorevole, poco movimentato, un mercato ingessato, poi ne parleremo anche a lungo. La prima copertina è dedicata al confronto fra l'acquisto della casa con mutuo e la locazione a 10, 15, 20 e 30 anni. Qual è il risultato di questo confronto? Che vince chi acquista. Poi vi racconteremo le simulazioni che Casa 24 ha preparato, però ci sono anche tanti altri aspetti e tante altre analisi legate al settore immobiliare. Peraltro trovano spazio anche i temi del design, dell'arredamento, la consulenza nella tematica fiscale legata alla casa e tanto altro ancora. Questa mattina per parlarne con noi Evelina Marchesini, collega del Sole 24 Ore, inviato, la donna del mattone per il quotidiano. Evelina, bentornata, buongiorno. Grazie Deborah, buongiorno a te e anche a tutte le ascoltatrici e agli ascoltatori. Dobbiamo ricordare che l'inserto ha la responsabilità di Paola Bottelli, della collega, però insomma tu hai coordinato, diciamo, questa prima uscita. Esattamente. E lo farai probabilmente anche per i prossimi numeri. Sì, Paola Bottelli è la responsabile. Io ho ideato il progetto e continuerò a fare una supervisione dello stesso, ma naturalmente c'è un'intera redazione rafforzata che si dedica a queste tematiche sempre più impegnative e, come gli ascoltatori ben sanno, anche sempre più complicate. E infatti, allora, siccome parleremo anche di mercato questa mattina, naturalmente le agenzie, i network immobiliari sono le principali, come dire, nostre vedette sul settore. Allora oggi Alessandro Ghisolfi, responsabile del centro studi di UBH, è ritornato con noi per raccontarci un po' anche come questo mercato sta andando. Lo dicevamo prima, microfoni spenti, con Evelina lo abbiamo chiaramente definito ingessato, come dire, aggettivo che stiamo utilizzando già da un bel po' di mesi, riferendoci al mercato immobiliare. Ghisolfi, buongiorno e bentornato. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi in diretta, 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Se non ci volete scrivere dei messaggi, volete scriverci delle mail un po' più articolate, potete utilizzare il nostro indirizzo di posta salvadanaio@radio24.it, ma anche, Evelina, ricordiamolo subito, avete allestito anche un indirizzo email per così raccogliere delle sollecitazioni sull'argomento da parte dei lettori: casa24plus@elsole24ore.com, corretto? Esattamente. E poi abbiamo naturalmente anche il sito specifico, che è www.casa24plus.it, che è accessibile direttamente o anche tramite il portale del Sole 24 Ore, www.sole24ore.com, che tutti conoscono. Allora, prima di entrare nel merito del tema di questa mattina, un'occhiata alla borsa, perché oggi merita di nuovo attenzione. La giornata è negativa, era partita male, sta peggiorando con il proseguire delle ore. Abbiamo Parigi in ribasso dell'1,18%, Francoforte perde un punto, Londra perde lo 0,87% e Milano perde l'1,69%. I temi di Milano li abbiamo già indicati nel corso del giornale radio. Oggi finisce di nuovo nel vortice delle vendite fondiarie, meno 7%. Il gruppo assicurativo ha avuto ieri sera l'autorizzazione da parte della Consob alla pubblicazione del prospetto informativo sull'aumento di capitale da 450 milioni di euro, che partirà lunedì prossimo. Le condizioni dell'aumento evidentemente non piacciono al mercato, il titolo perde appunto 7 punti percentuali. Il prezzo di emissione delle nuove azioni per l'operazione straordinaria, appunto, è di 1,50 euro per azione ordinaria e di 1 euro per ogni azione di risparmio. In questo momento, appunto, l'ultimo prezzo del titolo è di 4,13 euro. Mediaset meno 5,41%, fra gli altri titoli in ribasso, appunto, molto consistente. Le stime annunciate dalla società sull'andamento della raccolta pubblicitaria deprimono le quotazioni. Abbiamo poi un ribasso di 4,5 punti per STM, Popolare di Milano meno 3,85, Monte dei Paschi